portare proprio a un rifacimento della struttura welfare. Chi sei? Che fai? Quando lo fai? Se lo fai male, te vai a casa. Punto. Quindi il controllo totale del servizio che viene erogato, perché il cittadino deve essere messo al centro della politica del nostro comune e quindi il servizio deve essere eccellente o comunque efficace ed efficiente. Andando a sfulciare le varie tematiche, la prima che diciamo è quella che raccoglie un numero un po' più ampio è il disagio sociale. Il disagio sociale riguarda una serie di categorie e alla base di questo concetto del disagio sociale c'era una proposta molto interessante studiata, portata a tavolo e discussa da tutti quanti di Francesco De Rosa, il quale il suo sogno nel cassetto è quello di creare il reddito di cittadinanza, che però noi aspettiamo a voi per crearlo. Nel frattempo noi senza soldi che facciamo? Invece di dare praticamente il reddito di cittadinanza, che uno non possiamo dare perché sennò il tavolo bilancio ci picchia, un altro non lo possiamo dare perché alla fine sarebbe spart ricchezza, quindi non ci interessa, vogliamo ragionare sui servizi. I servizi quali sono? Per quanto riguarda gli anziani, prima di tutto il sostegno per l'acquisto dei medicinali, perché effettivamente ci sono degli anziani che non si possono curare e questo è un dato di fatto. E la seconda cosa è un apporto, un aiuto per quanto riguarda le visite specialistiche, perché la prevenzione è fondamentale e le ASL le devono prendere conto, perché se no si muore, se non c'è prevenzione. Quindi per gli anziani sicuramente questo è un servizio fondamentale. Il secondo, i giovani. I giovani si accontentano di poco, basta il trasporto gratuito per qua tutti i mezzi pubblici, perché chiedono poco, basta che fai a zonzo, l'hai fatto felice. In più, c'era questa bella proposta sia di Francesca che di Stefania Sannino, il taxi sociale. C'è un partenariato che però nello specifico ne parlerà Rosario Napolitano, perché rientra un po' nella tematica della salute degli anziani e anche questo taxi sociale. Però in questo momento ne parlo per quanto riguarda i giovani, perché purtroppo ci sono molti genitori che hanno difficoltà ad andare a prendere i figli quando escono, e quindi questo taxi sociale potrebbe essere la risoluzione, con un partenariato con il Comune di Napoli, quindi con delle tariffe agevolate e quindi magari uno sgravio fiscale su qualsiasi tipo di tassa che loro devono pagare, mettere a disposizione questa idea. Le famiglie, due cose sono fondamentali: i figli, i libri di testo gratuiti, veramente gratuiti, come diritto allo studio, e il trasporto gratuito, perché è fondamentale il trasporto gratuito per chi ha più figli. Voglio dire, veramente mandarli a scuola con i mezzi di trasporto è inutile, fai prima con la macchina perché spendi meno di benzina. Questa è questa questione dei servizi che sta alla base poi di tutto il disagio, perché può essere aperto a tutte le categorie. Per quanto riguarda, e poi c'è la politica abitativa di Salvatore Leonangeli, una proposta l'ha portata Salvatore Leonangeli, dico chi l'ha portata per rispetto di tutte le persone che c'erano ai tavoli, perché poi l'abbiamo concordata, condivisa, sviscerata tutti quanti insieme. Cioè di utilizzare il patrimonio sfitto, che è vasto, e darlo comunque a prezzi agevolati e cercare di risolvere la questione delle persone che non hanno casa, ma soprattutto di evitare questa politica del ghetto che ci siamo trascinati dietro per anni e che poi in realtà è stata la nostra rovina, o comunque la rovina di tutte le città metropolitane, delle grandi metropoli. Per quanto concerne le politiche giovanili, invece, abbiamo notato, perché al nostro tavolo ci sono molti giovani, che io ho notato una grande partecipazione, perdonatemi, molto propositiva di persone anziane nel movimento. Questo è bello perché significa che hanno ancora voglia di dare, e questa è una cosa bellissima. Cioè i giovani hanno bisogno di prendere fiducia nella politica e quindi cercare di mettere a disposizione, portare alla partecipazione dei giovani alla vita politica, quindi con una consulta sempre permanente, di questi tavoli permanenti per i giovani, quello che vogliono, cerchiamo di capire come glielo possiamo dare e se possiamo soddisfare le loro richieste, ma soprattutto mettere a disposizione delle strutture per aggregazione sociale ed evitare questo scempio che si perpetra sempre in questa città da anni, dell'occupazione di un luogo sempre con la solita scusa: noi siamo giovani, dove ci dobbiamo riunire? Quindi nascono poi tutta una serie di dinamiche che non sono belle da vedere, che possono essere anche pericolose, perché girano comunque sostanze, girano anche una politica sbagliata, e quindi insomma cercare di inglobare i giovani a noi, sempre utilizzando le strutture, perché un altro cappello fondamentale del tavolo delle politiche sociali è stato quello di destinare le strutture del comune di Napoli, abbandonate, dissestate, ma anche quelle sequestrate alle mafie, alle camorre, a qualsiasi associazione o cooperativa virtuosa che se ne voglia seriamente occupare, dando noi un canone gratuito per un tot di anni che ci permette di avere la politica del controllo, perché nel momento in cui noi non diamo la possibilità di pagare il fitto è come se entrassimo come soci, tra virgolette, quindi abbiamo il potere di dire: se tu non rispetti quello che è scritto sulla carta, perché io ti controllo attraverso proprio un monitoraggio iniziale, in itinere e finale del progetto che mi posta, te ne vai. Però non è che vado a inficiare il problema del cittadino che viene, praticamente gli viene tolto il servizio, cambia chi lo gestisce, il cittadino, la struttura, il progetto resta là se è valido. Tu l'hai fatto male? Vai a casa, ci sono 100.000 cooperative, associazioni che hanno voglia di fare questa cosa, quindi cercare di non creare quel disservizio continuo che quando si crea una cosa è andata male, si chiude, arrivederci. No, il progetto è valido, la struttura c'è, non sei stato tu, a casa, cioè senza mezzi tempi. Poi per quanto riguarda praticamente l'istruzione, che è di mia pertinenza, ci sono due sogni, questi veramente sono sogni, perché partono dall'osservazione che io e tante colleghe come me, perché qua anche ci sono dei colleghi validi con cui mi sono confrontata più di una volta, vedono nelle classi tutti i giorni. Allora, come si può evitare che un bambino che già è sfortunato perché nasce in un contesto, diciamo, di disagio economico e sociale per colpa della cicogna che è approdata in una casa purché in un'altra, debba essere condannato tutta la vita solo perché è nato in una famiglia che a loro volta sono state educate in un certo modo? Come si può distruggere questo meccanismo? Questo è un sogno che io credo si possa realizzare, perché questi fondi già esistono, che sono i fondi del semiconvitto, sono i fondi che il comune mette a disposizione per quei bambini che versano in condizioni di disagio, che però parte dal concetto che tu fai la domanda, non c'è un reale controllo da parte dei servizi sociali, che sono praticamente da rifare da capo, credo proprio da ricostruire, o con luci, insomma. Quindi alla fine che cosa si trova? Si trova che questo servizio, che è bellissimo, ci porta l'accompagnamento del bambino a scuola, il bambino permane a scuola, poi si vengono a prendere questi bambini dopo l'uscita, diciamo, scolastica, l'una e mezzo, lo portano in strutture, dopodiché si rovinano, perché entrano in queste strutture dove prendono tre bambini dalla 72esimo Valasciano, quattro bambini dalla Falcone, cinque bambini dalla Russo, li portano tutti in una stanza. E quindi che cosa si crea? Il ghetto. Si crea quello che noi non dobbiamo creare, perché quando nelle classi questi bambini che vivono un disagio sociale grande vengono inseriti e quindi in un contesto, diciamo, sano, misto, il bambino si adegua al bello, al buono. Se tu lo metti in un contesto difficile, il bambino per prevaricazione sociale ha bisogno di spalleggiarsi e quindi di dimostrare agli altri che è più figo, che è più bravo, che è più bello, risponde a maestra, cioè voglio dire tutto questo, per fare che cosa? Senza risolvere assolutamente niente. Allora la proposta qual è? Prendiamo i fondi del semiconvitto, destiniamoli alle istituzioni scolastiche, che sono le più proposte a individuare il vero disagio sociale, perché la maestra, più della maestra e del professore delle scuole medie, può individuare il disagio sociale che c'è nella sua classe. Quindi attraverso delle relazioni, informare i servizi sociali e fare in modo che quel bambino possa avere il semiconvitto, ma allargare il concetto del semiconvitto a tutte le famiglie. Cioè oggi le famiglie lavorano, tutti i genitori lavorano, quasi due, tutti. Teresa! Allora, se no c'è, voglio dire, prendiamo questi soldi e facciamo in modo che il progetto semiconvitto possa essere aperto a tutti. Quindi fare in modo che il semiconvitto si faccia nelle scuole, teniamo aperte le scuole fino alle 4. Risolviamo il problema delle polisportive, che occupano praticamente attraverso il comune le palestre, dando un servizio approssimativo. Quindi devono dare un servizio a chi paga, cioè i genitori che possono permettersi il pagamento della retta rispetto all'ISE, e poi fare anche sport. Quindi questa politica potrebbe poi andare a risolvere il problema dei Rom e degli immigrati, perché se tu prendi i Rom e gli immigrati e li introduci in questo concetto del semiconvitto nella scuola pubblica, fai in modo che questi bambini, con un censimento dei Rom e degli immigrati, non li tieni per strada, perché devono andare a scuola, e devono andare a scuola dalle 8 del mattino fino alle 7 di sera. E quindi hai risolto, diciamo, anche il problema dello sfruttamento dei minori e delle donne. Va bene, Teresa.